Un brevissimo intervento soltanto per tre piccoli, piccolissimi suggerimenti ai curatori di siti letterari online, in virtù del fatto che ne ho visti moltissimi facendo una rassegna, un elenco, una lista che ho messo in rete su Slow Forward pochi giorni fa. Primo suggerimento, non mettete in header all'inizio del sito una fotografia che occupa l'intero schermo. E magari addirittura poi seguita da 40 link a pagine del vostro sito. Cercate di limitare il numero delle pagine e cercate di avere un'immagine che sia orizzontale, stretta, che si sviluppi in orizzontale, stretta e lunga, e quindi che non occupi l'intero schermo, non diventi una specie di lenzuolo verticale che debba essere scorso un minuto intero prima di poter arrivare a qualche contenuto. Primo suggerimento. Secondo suggerimento, evitare quanto più possibile il chi siamo in homepage. Il chi siamo è una pagina, o about, come vogliamo chiamarla, quindi è un luogo che si raggiunge quando c'è questa curiosità. Se uno va sul sito, vuole vedere il contenuto innanzitutto, vuole vedere il primo saggio, il primo articolo, la prima recensione che avete pubblicato. Quindi quella deve essere subito possibilmente visibile e raggiungibile, un clic e via. Terza cosa importante, già dall'articolo stesso o dal fondo dell'articolo, comunque da qualche parte, indicate per favore la data di pubblicazione dell'articolo stesso. In alcuni casi si fa fatica a trovare il post e quando finalmente il più recente, quando finalmente lo si trova, questo post non ha una data. Perché questo soprattutto succede con i siti, meno con i blog. La data è importante perché permette di segnare sulla linea del tempo lo sviluppo del vostro stesso pensiero, del pensiero comunque della blog, del sito, come viene organizzato, come viene pensato l'insieme dei contenuti che pubblicate. E pensate, ragioniamo insieme per esempio sulla natura delle polemiche. Ecco, una polemica letteraria che si sviluppa attraverso post diversi su siti diversi, è impossibile ricostruirla o è molto difficile ricostruirla se non si dispone di una serie di datazioni precise. Ecco, questi tre suggerimenti io credo che permettano di organizzare dei siti che sono non soltanto belli da vedere, comunque con degli elementi di interesse di base che riguardano ovviamente i contenuti, ma che anche dal punto di vista formale aiutano il lettore a orientarsi al loro interno.